Allora, innanzitutto ringrazio la Biblioteca Provinciale Italiana, ringrazio voi che avete preso il tempo per venire qua, fiduciosi di trovare qualcosa di utile anche, no? E ringrazio naturalmente Augusto che ha fatto un bel viaggetto da Palermo per venire fin su da noi. E, però siccome oltre ad essere un filosofo è anche una persona molto pratica per tanti aspetti, ha approfittato per fare diverse puntate nel nord, tra cui un incontro con molti amici in provincia di Treviso, credo che sabato sarà a Trento per altri incontri e lunedì sera invece si troverà con un gruppo di Bologna, per cui ha sistemato un po' di cose. Poi, sapendo che lui è un esperto anche di mafia e di antimafia, ieri abbiamo fatto un incontro con due classi d'élite Battisti e questa mattina un incontro invece con tre classi almeno dell'istituto Gandhi di Merano. Ecco. Io non vi sto a presentare troppo Augusto Cavalli perché le biografie sono sempre molto ingannevoli, come diceva Italo Calvino. E imbarazzanti. Oltretutto. Ma vi leggo solo quella che si può trovare all'inizio di uno dei suoi libri, Filosofia di strada. È quello che diceva una signora del Salvador, Tania Molina. Dice: abbiamo un amico che viene dall'Italia, allora abbiamo un amico che viene da Palermo, dalla Sicilia diciamo, e è un filosofo diverso da come solitamente immaginiamo questa figura, ama infatti filosofare anche fuori dalle università e dalle scuole, nei quartieri popolari con la gente comune, e aggiungerei io, fa anche una cosa assolutamente interessante che forse non è l'unico a fare, ma fa filosofia con i carcerati del carcere Ucciardone di Palermo, e di questo lui parla anche in uno dei suoi libretti. E gli piace filosofare on the road con i non filosofi di professione, come potrei dire, è un filosofo di strada. Dunque, non abbiamo bisogno di essere intimiditi in questo caso dalla figura del filosofo che ci misura e scruta quanto saggi o sapienti siamo noi, ma è una persona che si mette in dialogo con gli altri. Detto questo, sul personaggio scomodo che abbiamo qui vicino, scherzo ovviamente, due cose sull'argomento di oggi. Il titolo di questa conversazione è Una spiritualità senza Dio. Lascio da parte per il momento il sottotitolo bisogno di spiritualità nel mondo globalizzato. Devo premettere che non ci siamo confrontati su quello che io avrei detto, per cui finisce che lo porto fuori strada, ma penso di no, ecco. Quindi il mio non è, come dire, un segnare il percorso che Augusto farà. Una spiritualità senza Dio. A me sembra che questo titolo sia veramente imbarazzante. La prima ragione per cui a me sembra imbarazzante è che tutte le volte che ci si occupa di qualcosa di forte, chiamiamolo così tra virgolette, elevato, la persona che ne parla sembra avere una piccola pretesa, quella di essere anche lui elevato e di essere in qualche modo migliore rispetto a quanti non riflettono su certe cose o non se ne occupano per varie ragioni. E come sappiamo benissimo, anche i filosofi possono essere dei cocomeri. Abbiamo avuto eccellenti esempi di filosofi inadeguati alla loro vita, inadeguati alle loro responsabilità. Per cui credo che possiamo tranquillamente togliere anche questo imbarazzante, come dire, motivo di equivoco. Non è che parlando della Santa Trinità si diventa rapidamente delle persone più elevate, altrimenti avremo un'Italia completamente diversa da quella che abbiamo oggi, con i milioni di ore di prediche, sappiamo, non è che si cambia un popolo o le persone o le coscienze. Ma soprattutto è la parola stessa spiritualità che è imbarazzante. E qua io credo che Augusto dovrà un po' sciogliere alcuni di questi elementi dell'imbarazzo che abbiamo. È una parola imbarazzante perché normalmente, derivando da spirito, si ha subito questa divisione tra spirito e corpo, come se il corpo potesse andare per i fatti suoi e lo spirito alzarsi a livelli angelici. È una parola complicata soprattutto a usarla in un contesto laico, cioè di persone che non sono riunite per una celebrazione religiosa, per esempio. E questo è un dramma, perché alcune cose che sembrano fondamentali a una vita buona, facciamo un esempio, l'onestà, la sincerità, l'umiltà, tutte queste cose è come se appartenessero a una sfera sacrale o religiosa. E questa è una mutilazione tremenda delle persone. E poi c'è un altro motivo, che se noi ci imbattiamo in persone tra virgolette normali o normalizzate della nostra società, vi guarderanno con un certo sconcerto, con un po' come se voi foste delle persone particolarmente ingenue o con una vita campata per aria. Perché? Perché le urgenze della vita sono altre normalmente, vengono intese come urgenze di lavoro, quindi anche di carattere economico, oppure urgenze di tipo politico. Potremmo dire che la parola spiritualità viene schiacciata da quello che si chiama il benaltrismo. C'è ben altro di cui dovremmo occuparci nel nostro mondo di oggi, minacciato dal dissesto diciamo così, dell'ambiente, dai terrorismi e dalle problematiche di una terza guerra mondiale strisciante giocata con metodi finanziari e non solo. Da un certo punto di vista, per altre persone la parola spiritualità potrebbe essere un argomento scontato, di cui non occorre parlare, o più nobilmente di cui non si può parlare. Pensiamo al filosofo Wittgenstein, no? Di certe cose non si può o addirittura non si deve parlare. In qualche modo è meglio fare le cose che parlarne, che metterci dentro delle parole. E da un certo punto di vista si potrebbe dire che tutti hanno una loro spiritualità. Ce l'ha Bertrand Russell, non so, un prototipo di filosofo scettico, che forse aveva una spiritualità anche molto elevata, se pensiamo che è stato colui che ha avviato il Tribunale dei diritti dell'uomo. Per usare un argomento vicino anche agli interessi di Cavadi, una loro spiritualità ce l'hanno anche i mafiosi. Può sembrare paradossale, magari avranno una spiritualità distorta. Cavadi ha dedicato un suo libro al Dio dei mafiosi, ovviamente per analizzare questa strana figura attorno al quale si condensava la devozione dei mafiosi, arrestati spesso in un nascondiglio segreto, avendo vicino al letto un comodino con sopra la Bibbia o il Vangelo. Utilizzando un altro grande personaggio, rubandogli le parole, potremmo dire che la spiritualità ce l'hanno anche le prostitute e i pubblicani, e anzi, una grande, interessante spiritualità forse, fino ad arrivare a alcuni teologi che dicono che forse anche i cani e i gatti, anzi, chiunque di voi abbia un cane o un gatto in casa potrebbe mettere la mano sul fuoco e dire, insomma, a me sembra che questo esserino abbia dei diritti a una vita dell'anima in un certo senso. L'ultimo aspetto imbarazzante del titolo è una spiritualità senza Dio. Con o senza Dio? È vero che noi siamo esseri umani e quindi andiamo al bar e ci chiedono con o senza zucchero, è vero, con o senza piombo, una volta la benzina, eccetera. Ora, io devo dire che la questione con o senza Dio è allo stesso tempo semplice e complicata, anzi molto complicata. al punto che tutte le volte che si parla di Dio ci si introduce in un contesto che è veramente a rischio. Si può parlare di Dio in un grande, stupendo delirio. Se noi pensiamo a quante cose sono state fatte e vengono fatte in nome di Dio, non da singole persone isolate, ma da intere masse, ebbene, dobbiamo riconoscere che la storia dell'umanità e delle religioni è fatta di uno spaventoso susseguirsi di deliri condivisi. Qualche volta potremmo pensare che la religione, senza che nessuno si debba offendere, sia effettivamente un delirio ben organizzato e molto ben condiviso. Eppure l'argomento per cui con o senza Dio è un argomento complesso è proprio collegato alla parola di Dio, cioè a ciò che Dio rappresenta, perché di Dio abbiamo molte versioni, molte idee e alcune di queste idee sicuramente poco affidabili. Dio, mettiamolo tra virgolette, è al tempo stesso evidente e nascosto. Il problema è che evidente e nascoste sono tantissime nostre realtà, a cominciare dalle singole persone. Noi tutti abbiamo qualcosa di molto evidente, ma anche di molto misterioso, di molto nascosto. Vorrei raccontarvi una storiella simpatica che a me è piaciuta e l'ho già citata in altre occasioni, sempre a proposito di Dio, ma anche sempre a proposito del delirio nel quale spesso noi viviamo. È una storiella che viene da uno scrittore che è morto molto giovane, David Foster Wallace, e dice: ci sono due giovani pesci che nuotano nel mare, nell'acqua, e a un certo punto incontrano un pesce più anziano. Grande rispetto per i pesci anziani, naturalmente, importantissimo. Incontrano un pesce anziano e gli anziani, si sa, sono anche molto più gentili e ben educati a volte delle nuove generazioni, no? E questo pesce anziano, che va nella direzione opposta dei due pesci giovani, fa un cenno di saluto. È lui che saluta i due pesci giovani e dice: salve ragazzi, com'è oggi l'acqua? Molto americano, eh? Com'è oggi l'acqua? I due pesci giovani nuotano un altro po' senza rispondere, poi uno guarda l'altro e fa: che cavolo è l'acqua? Credo che questa sia la dimensione dove spesso ci fermiamo, cioè siamo come talmente assuefatti all'evidenza da non vederla più. E questo è un problema per noi. Ecco perché in qualche modo servono i filosofi, che ci aiutano ad aprire questa scatola delle nostre sicurezze e dei nostri pregiudizi e a mostrarci qualche volta, come fanno anche i poeti o gli artisti, a mostrarci ciò che per noi è talmente evidente da non vederlo più. Vorrei finire prima di dirvi che ci sono dei libri di cui magari qua non si parla, e vi vorrei anche ricordare in particolare due titoli. Una storia vera, quella dei due pesci chiaramente inventata, ma una storia vera, e cioè un insegnante di religione in una classe di scuola elementare aveva avviato tutto un discorso molto partecipato su certi aspetti di Dio, che cosa può essere Dio, se Dio è questo e quell'altro, e poi aveva invitato i suoi alunni, i suoi ragazzi, a fare un disegno dove ci fosse Dio, qualcosa di Dio, no? E questi qua, tutti bravissimi, hanno cominciato a disegnare. Lui girava tra i banchi e a un certo punto si ferma da un ragazzino che ha un foglio completamente bianco e gli dice: ma come mai il foglio è completamente bianco? Perché non hai disegnato niente? E il ragazzino gli risponde: ma sa, perché Dio non ci sta nel foglio. Dio non ci sta nel foglio. Adesso io non vorrei illudervi troppo, ma certamente Dio non sta nel foglio di molte religioni, di molte nostre versioni, certamente è molto stretto nel foglio del moralismo, nel foglio del dogmatismo, però dobbiamo anche riconoscere che non sta tanto bene neanche nel foglio delle nostre ideologie aziendalistiche, delle società che si misurano a forza di indici di prodotto interno lordo, non ci sta neanche tanto bene nella società della felicità forzata. Ora, anche Cavalli, come vedete, non ci sta tutto nel foglio, e quindi vi prego di stare molto attenti, vi vorrei suggerire non solo il librone adatto a persone veramente motivate che lui ha lì davanti, Mosaici di saggezze, dove trovate tutto e più di tutto, ma vi vorrei anche suggerire un libretto molto sottile, che trovate anche qua, che si chiama Etica, e un altro libretto intitolato La rivoluzione, ma a partire da sé. Benissimo. Facciamo un applauso. Facciamo un applauso a Fabio, che praticamente ha già fatto la conferenza. Io posso anche salutarvi, ringraziarvi e andare a casa, perché ha detto tutte le cose essenziali e con una incisività di cui io non sono capace, quindi vi chiedo scusa in anticipo. E vi chiederei soltanto di entrare in un assetto che non sia di conferenza, che di solito è un assetto molto noioso, anche perché di solito chi gira per conferenze finisce con riassumere le cose che già scrive sui libri, che sugli articoli, quindi si le conferenze possono essere ben sostituite, per esempio, dall'indicazione di un blog, del mio blog, dove trovate tutto quello che ho da dire. Invece ha accennato Fabio al fatto che, vabbè, lui mi ha addirittura così definito filosofo, ma nel nostro linguaggio, mio e suo, filosofo non significa una persona importante, significa uno che nella vita ha scelto di fare professionalmente quello che tutti noi facciamo abitualmente, cioè pensare con la nostra testa, ragionare, chiedere conto di quello che ci viene imposto, proposto, e quindi da questo punto di vista io poi sono entrato in un movimento che è nato in Germania, la Philosophische Praxis, che è stata introdotta 20 anni fa in Italia, con un nome che a me non piace molto, sarebbe la consulenza filosofica. Quindi nel mondo ci siamo alcune migliaia di filosofi che abbiamo uno studio dove incontriamo chi vuole, non filosofo di professione, o per dei dialoghi personali oppure per degli incontri seminariali. Perché vi sto dicendo questo? Perché a me piacerebbe molto che stasera noi vivessimo un evento filosofico, una pratica filosofica, come la chiamiamo noi, che molto semplicemente consiste nel dialogare su un tema. Per dialogare bisogna essere almeno in due, quindi io vi posso proporre alcune cose in non più di mezz'ora, e poi mi piacerebbe che ognuno di voi dicesse che cosa accetta, che cosa rifiuta, le sue esperienze, le sue intuizioni, in modo che il gruppo fa filosofia insieme, quello che in alcune occasioni io vado organizzando in giro per l'Italia dei festival di filosofia, delle feste di filosofia, in cui abbiamo questi momenti di filosofare insieme. E in questa ottica, quindi, io non ho, diciamo, una lezione, una conferenza da tenere. Io ho riflettuto, come tutti voi, su alcune tematiche che riguardano la vita, la morte, l'invecchiamento, l'impegno sociale, eccetera. Ho riflettuto su queste tematiche e volevo, e mi piace, andare dovunque mi invitino per ascoltare che cosa gli altri hanno da dire su queste tematiche. Avete il foglio in cui io ho fissato 4-5 punti che sono più che altro i temi della discussione. Se le ragazze l'hanno chiamato possono prenderlo in qualche sedia avanti a voi, insomma, no? E il primo chiarimento che vorrei dare è sul titolo già abbastanza delucidato da Fabio: una spiritualità senza Dio. In greco si dice una spiritualità atea, con l'alfa ribadita, però in italiano ateo ha acquisito un significato negativo, nel senso di polemico. Cioè, se noi sentiamo dire che un professore, un medico, un idraulico è un ateo, se noi sentiamo dire che è un ateo, pensiamo che è uno che ce l'abbia con Dio, con Gesù Cristo, con i preti, con i sacramenti, eccetera. E ovviamente non è questo il significato che, a cui pensava Fabio quando ha scelto per me questo titolo. L'ha scelto nel senso letterale del termine. Ateo significa che l'alfa privativa mette fra parentesi il problema di Dio. Quindi, se qualcuno di voi è venuto perché spera che qua stasera attacchiamo, non so, il Papa, la Madonna, eccetera, rimarrà deluso, perché il punto diciamo, la spiritualità di cui vorrei che parlassimo, su cui vorrei che riflettessimo assieme, è atea, come atea la matematica, come atea l'algebra, nel senso che l'algebra non depone né a favore né contro Dio, semplicemente è un altro ambito. Poi se io faccio fisica, faccio biologia, faccio medicina, mi pongo anche il problema di Dio, ma quello è un problema ulteriore. E l'idea fondamentale che vorrei comunicarvi, proprio per metterla in discussione con voi, è che la cattiva abitudine di pensare che la spiritualità sia necessariamente legata a Dio, per cui chi crede in Dio deve essere per forza spirituale, chi non crede in Dio sicuramente non è spirituale, questa è l'unica idea che io, diciamo, rifiuto, perché l'esperienza mi dice, io, la mia vita è piena di amici, di amiche che non credono in Dio, ma proprio, a cominciare dalla mia moglie, ma non che non credono nel senso che lo rifiutano, non si pongono neppure il problema. Infatti mia moglie dice, come dopo la laurea in filosofia, perché lì mi vede, ho fatto anche 4 anni di teologia a Roma, ho seguito nell'Università del Papa il corso per i laici, no, ogni tanto mia moglie mi dice, sei un bravo marito, ma come ti viene in mente di perdere tanto tempo sul problema religioso, sul problema teologico? Perché per me il problema teologico, dice mia moglie, non esiste. A me non fa né caldo né freddo. Mia moglie, molti amici, molte amiche che sono atei, hanno una grande spiritualità, mi insegnano ogni giorno tante cose. Allora io sono stato, come dire, incuriosito, interrogato da questa spiritualità di chi non si pone il problema di Dio. Non è vero che la spiritualità è solo quella religiosa. Potrei aggiungere, visto che in anni passati ho frequentato molto gli ambienti cattolici, che è vero anche il reciproco. Molti religiosi che vanno in chiesa, che pregano, che Via Crucis, Rosari, non hanno una vita spirituale. Questa è una delle, come dire, scoperte più desolanti. Noi magari poi sui giornali leggiamo i casi limite, Cardinale Bertone con l'attico da 700 metri quadrati fatto con i soldi che i benefattori con lo stipendio statale come noi hanno dato per l'ospedale del Bambino Gesù. Ma quelli sono, come dire, le punte dell'iceberg. Io non credo che tutti quelli che si dicono credenti in Yahweh, nel Padre di Gesù Cristo, in Allah, vivano una vita spirituale, abbiano una vita spirituale. Se l'avessero, probabilmente non si comporterebbero come si comportano. Quindi, questo era solo per chiarire che la spiritualità è una spiritualità, ecco, io dico laica, anche qua la parola laica è una parola anche questa un po' rovinata. Perché? Perché in Italia concepiamo il laico in contrapposizione al credente, per esempio, no? Tu sei laico o sei cattolico? Ma è una cosa strana, perché laico non significa non credente. Il laico, da laos, che significa popolo in greco, significa uomo del popolo, cittadino comune. Per cui noi diciamo ci sono i giudici togati, i giudici di carriera, ci sono i laici, cioè quelli, i membri laici del CSM, che non sono giudici di carriera. Ci sono i preti, ci sono i laici. Il laico di per sé è colui che appartiene al popolo. E allora da questo punto di vista chi appartiene al popolo è una persona che si interroga, che non ha fatto una scelta, che non deve difendere dei ruoli, delle posizioni del partito preso, perché non è prete, non è magistrato, non è, è uno che appartiene al, uno dei tanti che quindi deve avere, se è una persona di buon senso, ha un atteggiamento di apertura nei confronti di tutte le posizioni. E per me un maestro di laicità in Italia lo considero Norberto Bobbio, che ha anche scritto molto su questo. Norberto Bobbio che dice: io sono laico, ma il laico non è uno che si contrappone a qualche altro. Il laico è uno che si interroga, riflette, discute, che non ha dogmi, diciamo, no? Che non ha preclusioni. E da questo punto di vista la laicità non è l'assenza di valori, è un pugno di valori, un nucleo di valori che si portano avanti con la propria testimonianza. Ma che cosa intendiamo per spiritualità? Io vi dico subito, come ho detto oggi al giornalista della RAI regionale che mi ha brevemente intervistato, che la parola spiritualità a me non piace, è una parola sfortunata, è una parola depistante. La parola spiritualità, no? Se ne trovassi una migliore, io la userei. Può darsi che stasera, discutendo con voi, qualcuno mi propone un termine più appropriato. Perché? Perché la parola spiritualità spesso, lo accennava poco fa Fabio, no? È una parola che invita alla contrapposizione, per esempio, spirito-corpo. No? Spirito-corpo. No, secondo me la spiritualità ci tocca, ci coinvolge nella nostra unità psicofisica o non è vera spiritualità. Spesso la spiritualità rimanda a una posizione intimistica, no? L'interiorità. Ma è chiaro che una vita spirituale è una vita interiore, ma è solo una vita interiore? O è una vita spirituale una vita interiore ed esteriore? Una spiritualità che non si vedesse, che non si manifestasse nei frutti, nei gesti, sarebbe una vera spiritualità? C'è la battuta un po' poco femminista del tizio: ti sei sposato? Sì, e com'è tua moglie? Ma di fuori così così, di dentro è molto bella. Ma allora perché non la rivolti? Gli fa l'amico. Perché non la rivolti? Il che significa che è una bellezza puramente interiore, che non traspare nei gesti, nei comportamenti, è una bellezza a metà, diciamo, no? È una bellezza incompleta. Quindi spiritualità non è spiritualismo, spiritualità non è intimismo, perché è anche esteriorità. Spesso si pensa che la spiritualità sia solitudine. Ecco, la persona spirituale, quella è molto spirituale, perché si chiude in casa e non va al cinema, non frequenta le cene degli amici, è in una fase molto spirituale, ma è depresso forse, chiamiamo uno psicoterapeuta, perché dobbiamo dire che se una persona vive una vita comunitaria, una vita sociale, non ha una vita spirituale? Ecco, la spiritualità è anche interiorità, ma è esteriorità, è anche solitudine, ma è anche convivialità, capacità di stare con l'altro, piacere di stare con gli altri, non solo piacere che si prova, ma piacere che si dà. Amici, per me le persone più spirituali che ho incontrato nella mia vita sono delle persone gradevolissime, cioè quando le posso incontrare io mi diverto. E forse non è un caso che si dice una battuta di spirito, per dire una persona spiritoso. Anche la spiritosità è una manifestazione della spiritualità. Guai a essere, come dire, musoni. Il musone è un depresso, non è uno spirituale. E spesso la spiritualità viene intesa anche come immobilismo, non immischiarsi negli affari sociali, politici. Ecco, io penso che la vita spirituale sia anche impegno sociale, attenzione alle sofferenze dell'umanità, che la vita spirituale sia anche volontà di curare l'ambiente, la natura. Allora, in una parola, io per spiritualità intendo, voglio rubare questa espressione a una filosofa statunitense, che se vi capita di ascoltare in internet è piena di sue conferenze, però parla in inglese, ma in italiano ci sono molte traduzioni, è Martha Nussbaum, la quale dice, usa questa bella espressione, la fioritura della persona. Ecco, io ruberei questa espressione per dire che cos'è la spiritualità secondo me. Una vita spirituale è una vita che è fiorita. Noi troppo spesso siamo come dei germi che sono rimasti germi. Siamo dei boccioli che hanno promesso di sbocciare ma non sono mai sbocciati. Allora, ecco, quando la vita, quando coltiviamo questo seme che siamo e fioriamo, quando la nostra vita fiorisce, il fiorire della nostra vita è quello che io intendo per vita spirituale. E da questo punto di vista l'uomo spirituale è un uomo a molte dimensioni, è un uomo che ha coltivato tutto quello che poteva coltivare di sé a 360 gradi. Certo, poi non è che ognuno di noi, cioè io ho già 66 anni e ho coltivato poco delle mie potenzialità, non credo che ne potrò, che avrò il tempo di coltivarne chissà quante, ma vi posso garantire che, come dire, ho desiderato coltivarle tutte, cioè non ho deciso a priori, no, non mi interessa la fisicità, no, non mi interessa l'affettività, no, non mi interessa l'estetica, no, non mi interessa la mistica, no, non mi interessa la politica, cioè che io poi non arrivi a maturare, ad esplicitare, a completare la mia personalità, pazienza. Ma vita spirituale è una vita in cui coltiviamo tutte le nostre possibilità. Diceva Nietzsche, riprendendo i greci, sii te stesso, sii in atto ciò che puoi essere in potenza, diventa ciò che sei, diventa in atto ciò che sei in potenza, come possibilità, come pura potenzialità. E allora è di questo che vorrei che, su questo che ognuno di voi ci raccontasse questa sera qualcosa, ci dicesse qualcosa. In un mondo globalizzato, la globalizzazione è un fenomeno strano, intanto non si capisce veramente se è una globalizzazione o è una occidentalizzazione del pianeta, intanto, perché detta globalizzazione, Detta così sembrerebbe una bella parola, però noi occidentali la globalizzazione la intendiamo che noi esportiamo capitali, merci, cultura, arte, canzoni, cibo, e che gli altri devono importare e comprare. Questa forse non è globalizzazione, uno la immagina come una libera circolazione di tutti verso tutti, non di alcuni che possano andare dove vogliono e altri che devono rimanere dove sono per lasciarsi sfruttare, per lasciarsi colonizzare, per lasciarsi invadere dai nostri prodotti o dalle nostre religioni o dalle nostre morali. Comunque, quello che mi interessa è che la spiritualità, secondo me, la spiritualità laica di cui parlo anche in questo libro, è la spiritualità come grammatica elementare. Cioè, io sono convinto che ci sono tante spiritualità, lo accennava Fabio, ma la spiritualità ebraica, la spiritualità cristiana, la spiritualità islamica, la spiritualità buddista, la spiritualità socialista, la spiritualità filosofica, sono tutte spiritualità che sono vere se presuppongono una spiritualità di base, una grammatica della spiritualità. Ed è questa grammatica della spiritualità che è poco coltivata, perché non ci riflettiamo, magari la diamo per scontata. Ma secondo me ci sono delle regole della vita spirituale talmente semplici, talmente essenziali, talmente elementari, che se vengono rispettate, poi chi vuole può anche andare oltre, costruire una spiritualità confessionale, una spiritualità politica, una spiritualità specifica. Ma se non c'è questa base, se non c'è questa grammatica elementare, fatta di che cosa? Ma un po' l'abbiamo detto, la spiritualità elementare è la spiritualità di chi sa parlare ma sa anche tacere, il silenzio, la contemplazione della bellezza, l'ascolto degli altri, la ricerca della verità scientifica, la memoria storica, l'attenzione all'arte, la sensibilità per la musica, l'attenzione alle sofferenze degli animali. Cioè, sono tutte cose che, diciamo, ognuno di voi vivrà qualcuno di questi aspetti. Ecco, io sono interessato a metterli davanti, perché troppo spesso ne ho curato alcuni ma ne ho dimenticato altri di questi aspetti. In questo libro Mosaici di saggezza io ho voluto prima di tutto ricordare a me stesso che cosa dalle varie sapienze, dalle varie culture, dalle varie religioni, quali sono quelle indicazioni di minima, quelle indicazioni di base che devono ispirare la nostra quotidianità. Perché se io sono un tipo avido, se io sono un tipo geloso, se io sono un tipo orgoglioso, se io sono un tipo permaloso, vabbè, poi insomma posso fare politica, diventare dirigente dei partiti più rivoluzionari della terra, posso diventare papa, ma se sei un omento che non ha capacità di ascolto, che non si sa mettere in discussione, che non sa ascoltare quello che gli altri gli stanno dicendo, e io credo che insomma la nostra vita è piena di questi incontri spiacevoli, sgradevoli, no? Poi, giustamente diceva Fabio, quando poi tutte queste cose le ritroviamo per giunta in persone che si ergono a maestri di vita, guru, padri spirituali, leader politici, nel grande e nel piccolo, no? Li abbiamo incontrati, persone che aprono un centro studi, un movimento, avviano un'attività, e appena hanno un minimo di consenso, un minimo di persone che attratte, si avvicinano, ecco che loro diventano subito, si sentono subito infallibili, non ammettono le critiche, non ammettono che l'altro possa vedere meglio su una determinata questione. E tutto questo implica, cioè non si impara da un momento all'altro, ci vuole un po' di attenzione, un po' di riflessione. Ecco, per esempio, dedicare 10 minuti della propria vita a riflettere all'inizio della giornata, alla fine, nel mezzo della giornata, ma come va la mia vita spirituale in questo senso in cui sto cercando di delimitare? E giustamente, ancora una volta, diceva Fabio, è un peccato quando si pensa che questo lo debbano fare i preti, le suore, i frati. L'esame di coscienza l'hanno inventato i filosofi greci prima di Gesù Cristo. Le scuole ellenistiche, epicurei, stoici, avevano l'esame di coscienza, avevano la direzione spirituale. C'è stato un filosofo francese che è morto ultra novantenne qualche anno fa, si chiamava Pierre Hadot, Hadot con l'H davanti, Hadot, l'Einaudi ha pubblicato quasi tutti i suoi scritti in italiano. Uno famoso è Esercizi spirituali e filosofia antica. Allora fa vedere come poi nel Medioevo c'è stato il monopolio della Chiesa Cattolica che ha assunto queste pratiche e noi le abbiamo imparate al catechismo, in parrocchia, per cui poi quando abbiamo rifiutato la parrocchia abbiamo gettato via, come si dice, no? Il bambino con l'acqua sporca. Risultato: se una persona non frequenta le sagrestie non fa mai un esame di coscienza e si crede infallibile, si crede una persona che non sbaglia mai, una persona che... Allora, se possiamo, ecco, io accenno un poco in questo libro al recupero di queste pratiche in concreto, che cosa possiamo fare? Ma 10.000 cose. Io da 20 anni, per esempio, una domenica al mese apro casa mia, per, l'ho chiamato un po' ironicamente, la prima domenica del mese, la domenica di chi non ha chiesa. Dico, chi ha la sinagoga vada in sinagoga, chi ha la parrocchia vada in parrocchia, chi ha la moschea vada in moschea, chi non ha dove andare venga in casa mia. Una volta al mese stiamo, passiamo la giornata a riflettere su un tema, vediamo un filmato, vediamo, ascoltiamo una poesia, poi condividiamo le risonanze che questo provoca in ciascuno di noi e poi a pranzo mettiamo in comune quello che abbiamo. È un tentativo, uno dei tanti che vado facendo nella vita, di dare delle occasioni di spiritualità laica, concreta alle persone. Perché? Perché credo che sia importante coltivare certe cose. Se non si coltivano, non fioriscono da sole o non fioriscono abbastanza. Se abbiamo bisogno anche di contagiarci in positivo oltre che in negativo tra di noi. Per cui, ecco, credo di aver detto alcune delle cose essenziali che volevo dire. E, no, forse ho ancora 5 minutini, allora passerei al punto D. Che cosa ho scritto? Ho scritto Servizi orientali e maestri della psicologia occidentale per dirvi che la crisi della spiritualità cattolica in Italia, ecco, senza fare discorsi troppo lunghi e troppo lontani da noi, in Italia chi esce dalla Chiesa Cattolica o dalla Chiesa, sono piccole minoranze, dalla Chiesa Protestante, ha cercato in questi ultimi 50 anni delle spiritualità altrove. Alcuni miei amici, ma per un certo periodo della mia vita anch'io, per esempio, l'abbiamo cercato nelle sapienze orientali, fondamentalmente l'induismo e il buddismo, ma anche il taoismo. Ebbene, se una persona trova la propria via in una sapienza orientale, io credo che sia fortunata e che faccia bene a vivere, come vivono i miei amici buddisti, una pratica buddista, perché il buddismo è una grande, diciamo, scuola di vita, soprattutto nei confronti del dolore, della sofferenza, che era il punto di partenza, il punto fisso di Buddha. Però il buddismo implica anche tutta una serie di affermazioni sul cosmo, sul mondo, sull'uomo, eccetera, che possono anche non essere condivise. Io non vi sto a dire che cosa non mi convince del buddismo, che cosa non mi convince dell'induismo, ma appartengo a una di quelle tante persone che hanno cercato in Oriente e nei gruppi orientali che sono esplosi dal 1968 in poi in Italia. Io ho imparato e continuo a imparare molto dalle sapienze orientali, ma per tante ragioni che eventualmente poi possiamo discutere, se c'è qualcuno di voi invece buddista, induista, ne possiamo parlare oggi stesso, ma mi è sembrata anche quella una risposta interessante ma incompleta. Non mi sono sentito, come dire, di lasciare il cristianesimo per diventare buddista. La mia generazione, quando ha vissuto un po', come dire, ha superato la moda orientale, molti si sono rivolti alla psicologia per avere un alimento spirituale. Non sto parlando della psicologia spicciola, dello psicologo dell'angolo o dell'ASP, diciamo, no? Con tutto il rispetto, ma è chiaro che lo psicoterapeuta che passa la mutua è uno che deve lavorare con le persone che hanno un disagio forte, deve cercare di farlo stare meglio. Però la psicologia, Freud, ma soprattutto Jung, ma soprattutto Erich Fromm, sono nomi che quelli che hanno i capelli bianchi come me dicono sicuramente qualche cosa, ma Erich Fromm è conosciuto spesso anche dai giovani perché ha scritto L'arte di amare, perché ha scritto Avere o essere. Ebbene, questa è una, come dire, una miniera di per me, per esempio, Erich Fromm con questi suoi libri è stato una miniera di indicazioni di vita spirituale, proprio, no? Di vita etica, di concretezza. E si può, come dire, ci si può accontentare dell'insegnamento che viene dalle scuole psicologiche, psicoterapeutiche. Io ho molti amici, soprattutto amiche, devo dire, a cui il discorso di Jung, i simboli, gli archetipi, i sogni, è sufficiente. Beati loro, beate loro, se si trovano a loro agio, vivano così, perché è sempre, come dire, un sostegno per non soffocare nella banalità quotidiana, è sempre uno stimolo a non addormentarsi sul grigiore quotidiano. Però io, pur avendo imparato moltissime cose dalla tradizione e continuando a leggere praticamente continuamente libri di grandi maestri della psicologia, il caso eclatante per me è il caso di Hillman, dove trovi tante intuizioni bellissime e tante affermazioni che secondo me, cioè, io faccio fatica ad accettare, mi sembrano un po', diciamo, campate in aria. E allora, ecco, ritengo che è il motivo per cui ho pensato originariamente a questo libro. Ritengo che in Occidente abbiamo anche un'altra miniera, che è la filosofia. A scuola ci viene presentata la filosofia soprattutto come un gioco di idee, come un gioco cervellotico. Diciamo che il filosofo è quello che la spara grossa, e sembra che i filosofi si divertano a spararla più grossa. La filosofia è anche questo, no? C'è la dimensione della creatività teoretica, c'è la dimensione della storia della filosofia, no? È importante conoscere che cosa ha detto Platone, cosa ha scritto Aristotele, che cosa ha detto Kant, eccetera. Ma c'è una terza dimensione della filosofia. La filosofia è sempre stata non soltanto un modo di ragionare, un modo di pensare, la filosofia è stata anche un modo di vivere, cioè è stata una spiritualità. Per secoli, quando si diceva di una persona quello è un filosofo, non si intendeva dire quello è una specie di Vittorio Sgarbi che sa aggredire tutti, sa dialettizzare facilmente, c'ha la battuta pronta. No, per secoli quello è un filosofo significava quello è una persona attenta, seria, coerente, che vive quello che pensa, che testimonia quello in cui ritiene, diciamo, di aver trovato la verità. Ecco, c'è questa dimensione spirituale della filosofia e secondo me possiamo attingere, come ho tentato di fare io in questo libro, delle indicazioni su come mangiare, su come digiunare, su come lavorare, su come divertirsi, su come gestire la salute, la malattia, la vita di coppia, la solitudine, l'impegno politico. Ecco, io credo che la filosofia sia anche una nuova antichissima spiritualità, è il sottotitolo del libro, no? La filosofia come una nuova antichissima spiritualità, nuova perché la stiamo cercando di rivalutare, appunto vi ho citato Pierre Hadot, vi ho citato Martha Nussbaum, c'è un mio coetaneo in Germania che si chiama Hakenbach, ci sono questi, diciamo, pionieri, c'è stato Foucault in Francia, che hanno cercato di rispolverare, di rivitalizzare la filosofia come modo di vita, come esistenza, come etica e come spiritualità. Spiritualità nel senso che mi sono sforzato ampiamente di circoscrivere. Per cui da questo punto di vista io penso che sia importante che noi smettiamo quell'atteggiamento, come diceva Fabio, di venerazione, di soggezione nei confronti dei filosofi e della filosofia, perché la vera filosofia, quindi i veri filosofi, sono persone semplici che non si montano la testa e che cercano di offrire il risultato delle loro riflessioni, ma non offrirle tanto per rimanere sul piano delle idee, offrirle per cambiare la vita. Cioè, secondo me, il vero filosofo è uno che vive come pensa e testimonia ciò che pensa veramente. E quindi da questo punto di vista, ecco, sono 30 anni che io, per esempio, una settimana all'anno organizzo le vacanze filosofiche per i non filosofi. Andiamo in una montagna, spesso in Alto Adige. Le prime nel 1983 le organizzate in una collina sopra Trento, con qualche compagno, con qualche alunno, con qualche collega. Poi da allora, insomma, siamo stati varie volte in Valle Aurina, però siamo stati anche in Toscana alla Terna, siamo stati anche sul Monte Rosa, siamo stati anche in Sicilia, quest'anno torneremo dopo molti anni a Erice in Sicilia. Una settimana in cui si sta assieme filosofi di professione, non filosofi di professione, a riflettere, a confrontarci su una tematica. Un anno è il dolore, un anno è l'impegno sociale, quest'anno sarà l'amore in tutte le sue gamme, in tutte le sue versioni, ma vacanze filosofiche con i filosofi, quindi non il festival in cui arrivano 400 persone, io sono stato a Modena a settembre e sono rimasto deluso perché le cose sono andate al festival di Modena, Sassuolo e Campi, sono rimasto deluso perché sono andate esattamente come temevo, cioè non c'erano 40 persone come stasera e la possibilità di dialogare, ce n'erano 400, 800, 1000, piazze intere. Arriva la star, Bauman, Severino, Cacciari, fa la sua conferenza, quando era possibile 5 minutini di interventi, tu vedevi persone di 70 anni con la barba più lunga della mia che dovevano alzare il ditino, dire, fare un intervento, e dopo due minuti c'era il ragazzotto accanto a Bauman, vabbè, basta, abbiamo capito, grazie, dobbiamo passare al successivo. Quella non è un'esperienza di filosofia. Se stiamo una settimana insieme, mangiamo assieme, passeggiamo assieme, in gruppo, a due, a tre, a cinque, allora quella è un'esperienza in cui possiamo maturare certi pensieri, capire meglio gli altri, capire meglio i nostri pensieri, no? Perché se io li devo esprimere sono costretto a chiarirmi le idee io stesso. E quindi da questo punto di vista le occasioni per fare filosofia in questo senso sono tantissime. Già che ci sono, concludo l'ultimo punto, un futuro possibile, saggezze in mosaico. La metafora del mosaico viene dal fatto che vengo da una terra dove ci sono tanti problemi, di cui la mafia non è l'ultimo, ma ci sono tante bellezze sia naturali che artistiche. L'anno scorso l'UNESCO ha dichiarato patrimonio dell'umanità alcune chiese palermitane, cattedrale, Cappella Palatina, Duomo di Monreale, dove l'arte bizantina, arabo bizantina, ha lasciato dei mosaici. I mosaici funzionano perché? Perché ci sono tante tessere, ogni tessera è se stessa, ma ogni tessera si inserisce in un dialogo con tutte le altre tessere, ed è solo nell'insieme che ogni tessera dà il meglio di sé. Questa metafora mi è stata suggerita dai mosaici per capire qual può essere il futuro dell'umanità, almeno il futuro per cui io ritengo che valga la pena impegnarsi, scrivere, parlare, girare, organizzare eventi. Il futuro dell'umanità, secondo me, non lo avrà né il solo cristianesimo, né il solo islamismo, né il solo socialismo, né il solo liberalismo, né la sola filosofia, né il solo induismo, eccetera. Cioè, io credo che l'umanità abbia prodotto tante saggezze, ognuna di queste ha fanni sporchi da lavare. Ancora non ho trovato una sola tradizione dell'umanità dove non si siano compiuti errori, dove non si siano compiuti orrori, certo, chi più, chi meno, ma ecco, io credo che è venuto il momento in cui ogni tradizione sapienziale debba fare autocritica seria, riconoscere il male che la filosofia, il cristianesimo, l'ebraismo, il buddismo, il socialismo hanno fatto all'umanità, ma tirino fuori la perla preziosa che ognuna di queste tradizioni contiene. Io non le conosco moltissimo, ma da quando l'anno scorso mi sono messo in pensione ho concentrato la mia attenzione e organizzo degli incontri in cui invito l'ebreo, il buddista a spiegarmi meglio le loro posizioni, perché sono convinto che ogni, per quel poco che ho studiato in questi 50 anni, ogni tradizione sapienziale ha qualcosa di prezioso da offrire all'umanità. Sarà prezioso se non viene offerto in maniera fondamentalistica, no? Pretenziosa, esclusivistica. Io ho paura di chi dice credo fermamente in quello che penso. Bene, se però poi mi aggiunge credo che gli altri dunque non hanno capito nulla o debbano essere convertiti, là mi allarmo. Tu devi offrire il meglio della tua tradizione dopo averla purificata di tutti gli errori e gli orrori, e la devi mettere a disposizione di questo mosaico. Questa sarebbe, secondo me, la vera globalizzazione, un giardino di sapienze in cui ognuno possa dare, offrire, ricordare, rivivere il meglio della propria tradizione e lasciarsi integrare, lasciarsi completare da quelli che la pensano diversamente, che hanno vissuto altre prospettive, che hanno percorso altri itinerari. se avremo questo senso di povertà, il limite, il senso del limite, e anche l'orgoglio di essere portatori di qualcosa di importante, ma fare convivere questo senso, l'orgoglio dell'eredità che abbiamo ricevuto ognuno nelle nostre regioni del pianeta, ma farlo convivere con il senso del limite. Noi abbiamo capito molte cose che non hanno capito gli induisti, che non hanno capito i buddisti, che non hanno capito, ma loro hanno capito tante cose che noi non abbiamo capito. Allora scendiamo dalla cattedra, mettiamoci tutti sullo stesso piano e vediamo di scambiarci i carismi, i doni, l'eredità, integrandoci in un mosaico mai definitivo, un mosaico sempre, come dire, in discussione, perché la storia è in divenire, però l'ottica dovrebbe essere quella dell'integrazione, non quella della separazione, del conflitto. Vabbè, ho superato la mezz'oretta che mi ero preposto e quindi io sto zitto, ma a patto che parliate voi, è una minaccia, se non parlate voi io continuo, riprendo, perché le cose da dire su questa tematica sono infinite. Quindi... per essere nella posizione in cui sono adesso, ho attraversato un po' di travagli e ho guadagnato, credo, una prospettiva che, appunto, sto dicendo, mi fa condividere quanto qui è stato affermato. Cioè, sono profondamente convinto in questo momento che se le religioni perdono, soprattutto quella occidentale, perde colpo in continuità, è perché va crescendo una spiritualità molto più personalizzata, legata all'esperienza e non legata a schemi già precostituiti. Ed è questa che fa sì che la gente faccia il proprio percorso finalmente di vita spirituale più intera, no? E svuoti le chiese, le quali sono ancora legate a riprodurre religione invece che a proporre una fede liberante. No? Ci sono le eccezioni, ovviamente. Ecco, attraverso quali stadi sono passato a condividere un po' questa posizione. Credo che l'inizio è il fatto che ho dovuto abbandonare il potere che avevo come prete, perché non mi trovavo a mio agio dentro un'istituzione che mi chiedeva di svolgere certi compiti a cui sentivo che non erano coerenti con il mio modo di concepire, per esempio, la verità e la ricerca della verità, e dovevo fare invece il trasmettitore di una verità già confezionata, no? Il fatto di essermi dovuto spogliare di questo potere, di essermi dovuto muovere come uomo qualunque, mi ha messo in una crisi notevole e mi ha obbligato a prendere in mano la mia vita. Uno dei fattori che mi ha aiutato a prendere in mano la mia vita è che avevo acquisito molte competenze a dispetto dei consigli che mi venivano dati di ordine psicologico. La psicologia mi veniva presentata come un pericolo, no? Invece ho trovato tutta la forza liberante che c'è nel cominciare a riflettere su se stessi, sui propri vissuti in chiave psicologica, e soprattutto ho avuto la possibilità di insegnare per parecchi anni in psicologia della religione, e che vuol dire che ha spostato tutto l'asse dell'attenzione non sulla religione ma sul modo con cui le persone aderiscono o non aderiscono a una religione, in una forma matura o in una forma immatura, con meccanismi difensivi o con meccanismi invece di ricerca di senso, eccetera. L'altro aspetto che ultimamente mi ha messo profondamente in discussione è la lettura di Mapugio, i suoi testi, o di robe sulla stessa linea, che mi hanno impegnato a mettermi in discussione rispetto a degli schemi per cui si pensava a un Dio che dall'alto crea, che è onnipotente, no? Poi poco buono perché c'era stato nasce nelle teste tanta fetta di umanità sofferente e con la sua onnipotenza cosa fa? Sarebbe meglio usare la sua volontà, secondo me la sua volontà c'è, no? Però ho fatto fatica a riscoprirla e l'ho riscoperta mettendomi in sintonia col discorso scientifico, cioè con questa convinzione che noi siamo energia e che ci sono energie fisiche legate al corpo, energie psichiche ed energie spirituali. Ed è questa linea di ricerca che mi ha aiutato a scoprire che l'evoluzione guardata con attenzione non è una lotta fra chi sopravvive secondo i meccanismi del caso, della necessità, della competizione, eccetera. Quello è un piano superficiale. C'è un'evoluzione che è venuta avanti, che ha una qualità, che ha salti di qualità soprattutto, che è in qualche modo direzionata. Perché altrimenti io non mi spiego la nascita della vita rispetto alla materia, non mi spiego la nascita della dimensione della coscienza e della memoria che l'uomo ha di sé e della capacità di riflettere su di sé, e lì vedo un qualche cosa che fa sì che la dimensione spirituale femminile emerga dalla materia, no? Emerga da Dio, emerga dalla materia e sia capace di impregnare la materia e la storia di significati sempre più belli, più significativi, più ampi, più dialoganti, eccetera, eccetera. Ecco, grazie. Sì, sì, ringraziamo Donna, lei si chiama Donna? Dario. Don Dario. Don Dario. Un vecchio amico di quell'eretico. Senza Dio. Dica, dice un signore. No, due parole semplici. Volevo dire che la spiritualità è una parola astratta, come ne avevo tante, parole astratte ce ne sono tantissime, che noi usiamo poi tra l'altro, anche se sono astratte, perché è una dimensione divina la spiritualità, perché si è pur sempre detto Dio è puro spirito. Allora, vedete, parole che noi usiamo tutti i giorni, non ce ne accorgiamo, come, che so io, amore o tante altre ne abbiamo, e le usiamo proprio tutti i giorni. Allora lei mi viene in mente, lei aveva detto prima che sua moglie non è credente, che è atea addirittura, perché non ci pensa per niente ad essere credente. Ma io dico, tra lei e sua moglie esiste l'amore per Bacco, no? E l'amore è una dimensione appunto astratta. Ecco che facciamo uso di questa parola amore, che è una parola astratta e che si ricollega quindi alla spiritualità, a Dio stesso, perché non è ci rivolgiamo a qualcosa che noi sentiamo con il nostro cuore, innanzitutto, più che con la mente, col corpo. E allora ecco che sono molto, mi trovo strano quanto, specialmente oggigiorno, gente che dice ah io sono ateo, ah io non riesco a credere. Ma come non riesco a credere? Se siamo qua, ogni roba che c'è in questo mondo è appartiene a Dio. Ecco, grazie. Qualcuno? Il punto però è questo, che un filosofo come me, per esempio, che di fronte a una dichiarazione come la sua, da una parte ha molto, come dire, rispetto, reverenza verso la sua fede, che a quanto pare è molto intensa, no? Talmente intensa, talmente forte, che lei fa fatica a capire come ci sono, ci possono essere altri che non la condividono, diciamo, no? Certo. Mi pare, no, che il senso del suo intervento è che un po' è come il pesce anziano che è dentro l'acqua, dice: ma come fai ai pesci giovani che non sanno neppure di essere immersi dentro l'acqua? Però mentre queste dichiarazioni di fede hanno senso, o se parliamo in campo religioso, o se parliamo in campo poetico, io ho un'intuizione, la comunico e non devo rendere ragione di quello che dico a nessuno. Cioè, per Manzoni Dio era Dio cattolico, per Leopardi Dio molto probabilmente non esisteva, e nessuno dei due doveva portare delle ragioni. Quindi quando io mi trovo di fronte a una proclamazione di fede o una intuizione poetica, con tanto di cappello, il filosofo però non si può accontentare di questo, né negli altri né in se stesso. Cioè il filosofo deve chiedersi: ma lei perché dice quello che dice? Cioè perché secondo lei Dio è evidente? Perché lei ha abbozzato un ragionamento, cioè lei ha detto: esistono tante cose immateriali, l'amore per esempio, quindi siccome parliamo di Dio come una di queste realtà immateriali, ne ammettiamo tante, perché non ammettere anche questa, se ho capito bene, no? Che dal punto di vista della logica filosofica non è che funzioni tanto, perché allora poi mi arriva un altro che mi dice che tra le parole immateriali che noi usiamo c'è la parola patria, e che quindi la patria è sacra, inviolabile, e che merita, come dire, la dedizione dei singoli, dei popoli, cioè, c'è gente che per la patria, lei me lo insegna, ha sacrificato la vita, la serenità, la famiglia, eccetera. C'è, si può fare questo discorso a proposito di tanti valori, ma il fatto che ci sono persone che credono in questi valori automaticamente non significa che questi valori siano dei valori oggettivi, siano dei valori reali. Per cui che ci sia Dio, ecco, la posizione laica secondo me è la posizione di chi dice: se qualcuno me lo dimostra, io, diciamo, lo accetterò, non devo poi dire no, non lo voglio accettare perché è scomodo. Ma se nessuno mi porta, non dico delle dimostrazioni, ma neppure delle vie, come le chiamava San Tommaso d'Aquino, no? Tommaso non ha parlato mai di prove dell'esistenza di Dio, però ha parlato di vie, cioè di sintomi, di indizi che mi devono portare a ritenere che affermare Dio sia più ragionevole che negarlo. E là il discorso si fa maledettamente complicato. Perché? Perché quando lei usa la parola Dio, io non so a che cosa lei pensi. Se lei pensa a qualcosa di definito, io non so se invidiarla o compiangerla, perché la parola Dio è una di quelle parole trappola, nel senso che noi la usiamo, crediamo di sapere di che cosa stiamo parlando, quando poi proviamo a definire quello che noi intendiamo, ci troviamo spaesati. Per cui i grandi teologi ci dicono, come San Tommaso d'Aquino, che Dio c'è penitus ignotus, profondamente ignoto. Allora io, di fronte a chi mi dice Dio c'è oppure Dio non c'è, io dico: ma sapete che siete fortunati, perché sapete già chi, intanto sapete chi è Dio, sia chi di voi lo afferma sia chi di voi lo nega sa già di che cosa sta parlando. Io credo di non saperlo, ma soprattutto credo che se Dio esistesse sarebbe talmente Dio da trascendere le nostre possibilità di acciuffare. Per carità, non è che, quindi la mia, come la sua, non è stata un'argomentazione filosofica, non è neppure la mia, per la brevità diciamo, del tempo, ma mi interessa che si capisca che una cosa è l'affermazione di fede, che secondo me, diciamo, è sacrosanta. Una cosa è quando noi ci stupiamo che la nostra fede non viene condivisa dagli altri, no, perché gli altri o hanno altre fedi o non ne hanno nessuna, e allora là il lavoro che fa per esempio Vito Mancuso, con cui ho scritto anche un libro sulla pedofilia dei preti, che stimo, a cui voglio bene, eccetera. Alcune cose di Vito non mi convincono, soprattutto l'ultimo libro su Dio e il suo destino, ci sono interi capitoli che non mi convincono, però c'è il tentativo di Vito Mancuso di legare il teologico al razionale, sia lo scientifico che il filosofico. Secondo me quella è una strada a cui non possiamo rinunciare. Lui cerca di dialogare con chi non ha l'evidenza del religioso, del sacro, e che invece parte da un orizzonte. Beh, non possiamo pretendere, noi non possiamo pretendere di conoscere Dio, questo non è possibile, abbiamo il nostro limite, però abbiamo manifestazioni della presenza di Dio, abbiamo danza. E io che credo in Gesù Cristo, per esempio, vedo l'insegnamento che se è scritto, la dottrina cristiana, porta a questa conoscenza. Io ho letto il libro del Signor Bonafè, Gesù Cristo scomodo, il rabbi molesto, è una cosa che per me è addirittura sorprendente che sia stato scritto da lei un libro così, che una volta sarebbe stato, avrebbero tagliato la testa. No, ecco. Grazie per la pubblicità. A parte questo, scusate, voglio dire che come poteva presentarsi altrimenti Gesù? Non poteva mica dire: quasi dai ragazzi, prendete su con la barca che adesso ve la riempio di pesci, non preoccupatevi. E insomma, fare il pagliaccio. Doveva presentarsi come fanno i capi nell'ambito di lui. Delle vite umane, i capi si presentano sempre come persone serie, sempre nell'ambito del bene, persone autorevoli e persone che possono essere credute. Non poteva essere Gesù Cristo uno che doveva essere severo per essere credibile, doveva essere severo. E poi in tanti casi, per esempio, una delle cose che non capiamo è per esempio la cena di Cana, dove che Gesù, sarà perché noi non siamo abituati, ci vogliono l'Oriente, le donne venivano trattate anche un po' male, no? E Gesù dice, quando è venuto a mancare il vino, dice a suo figlio, è venuto a mancare il vino, e lui ha detto, taci donna, che il mio tempo non è ancora venuto. Una parola molto autoriale, diciamo anche un po' scarpata nei confronti della madre, però capite, autorevole. Gesù non poteva altro che essere così, se no la sua opera, la sua predicazione sarebbe stata una predicazione da pagliaccio, no? Bisogna essere certi. E diceva prima il Signore che ci sono stati tanti eroi per la patria, quelli che sono morti per la patria. Prendiamo Cesare Pavese, che ho letto recentemente, non Cesare Pavese, però è trentino, Battisti. Cesare Battisti, ho letto tutto il suo libro recentemente, tutto quello che era stato detto di Cesare Battisti. Ecco, anche lui, per essere creduto, doveva fare questo sacrificio, perché una parola come il redentismo ai tempi negli stati bassi della popolazione non sapeva niente cos'è. Il Kaiser a quei tempi era tutto, si doveva fare per il Kaiser nell'ambito dell'impero austro-ungarico. I trentini mica si pensavano a liberarsi e stavano bene così, e quindi anche lì per fare un'azione di forza e quindi fare in modo che le cose sia andato come sono andato, ci voleva una bella autorità e anche sacrificio. Grazie. Ci vorrebbe parlare fino alla fine del mondo. Fa parte del mosaico. Io la voglio ringraziare molto di quest'ultima metafora che ci ha presentato del mosaico, tanti tasselli che però prendono valore e significato al di dentro di un mosaico intero, e questo lo posso dire di averlo sperimentato un pochino nella mia vita. Ho cercato di approfondire anch'io un po' il buddismo, l'induismo, in particolare il sufismo, che ho vissuto 10 anni in Iran, mi sono innamorato del sufismo e ho approfondito ultimamente anche questa spiritualità, ecco, parte laica di cui sta parlando lei. Però l'esperienza mia è stata questa: tutte le volte che mi sono aperto alle differenti spiritualità non mi sono sentito di rinnegare il mio tassello, anzi l'ho visto purificarsi, rendersi più splendente, più bella. Cioè anch'io sono di fede cristiana e ne sono profondamente convinto. Però la mia esperienza è che ogni volta che mi apro a spiritualità differente, la mia la sento ravvivarsi, purificarsi, rendersi ancora più profonda, più bella all'interno di questo grande mosaico. E questa è la spiritualità del futuro. Sì, veramente grazie per questo suo splendido intervento, che mi ricorda un libro che ho recensito pochi mesi fa, che lei conoscerà forse, di uno dei più interessanti teologi cristiani contemporanei, talmente interessante che, come tutti i teologi interessanti, poi è stato punito dal Vaticano, condannato, eccetera. E si chiama Paul Nitter, scritto K. Nitter, in italiano è stato tradotto dalla Fazzi, uno dei suoi libri, senza Buddha non potrei essere cristiano, in cui lui racconta che da prete cattolico è entrato in crisi perché non c'è cominciato a vedere tutta un po' la storia che raccontava Don Dario, no? Che molti luoghi non si sentiva di continuare a predicare delle cose che hanno un valore, nella migliore delle ipotesi, mitico, simbolico, e che invece la Chiesa Cattolica insegna come se fossero verità oggettive. Allora ha cominciato a pellegrinare anche spiritualmente, oltre che fisicamente, ha conosciuto e praticato il buddismo, e questo libro molto bello fa vedere punto per punto come quello che dice il buddismo sul buddismo lo aiuta a rileggere in maniera più convincente il cristianesimo. Paul Nitter, senza Buddha non potrei essere cristiano. È un po' un'esperienza come la sua. Sì, c'era il Signore e poi Vincenzo. Dopo tanta spiritualità, un materialista molto semplice, e però a Erice, quando avete come tema il male, l'odio, no? Proprio per un siciliano che a Villa Armerina c'è una sala con la caccia e c'è l'animale, l'unico in gabbia nella sala della caccia è l'uomo, perché siamo tutti cattivi. Questa è una sua affermazione di fede o filosofica? Perché se di fede la dobbiamo rispettare. Se è filosofica, deve portare delle argomentazioni per dire che siamo tutti cattivi e siamo soltanto cattivi. Non l'ha detto soltanto. Benissimo. Non l'ho detto qua. Quanto? Allora credo che nessuno sarà in disaccordo con te. Dica. No, vabbè. Il tema del male è un tema enorme ed è uno dei temi che un po' il male delle persone. Quando si dice che appunto Dio si manifesta, sì, Dio si manifesta in tante cose positive, ma rimane la questione che il male che sperimentiamo nella natura e nella storia mette in crisi almeno una certa immagine tradizionale di Dio, almeno, se non proprio Dio, che secondo me rimane ulteriore, però le immagini che ci siamo costruite non funzionano granché. Vincenzo. Anch'io ringrazio Augusto per questa serata, soprattutto per questo incontro di anima, perché la mia paura di assistere a una conferenza, cioè invece questo incontro mi piace molto, questo. Quindi un po' anche incoraggiato voglio aprirmi anch'io, diciamo, che è stata la mia esperienza di ricercatore della verità, perché tutti noi nasciamo in questa terra, ci troviamo così, insomma, a chiederci chi siamo, e io sono partito dal Vangelo, la mia esperienza, io ho vissuto in Basilicata, un paesino montabano, io ho preso di Matera, e frequentavo la chiesa, ero scomodo, facevo tante domande per i preti, infatti ero il terrore dei preti, mi credevano. Però dentro nel mio cuore mi chiedevo, ma tante religioni, tante realtà, ma la verità dove sta? No? E ho cominciato a leggere il Vangelo, che per me era, diciamo, il libro sacro che era a portata di mano, e per me è stata una luce, un pane di vita, perché la parola sacra ha un potere particolare, diciamo. E leggendo il Vangelo c'è stata dentro di me una trasformazione spirituale e mi ha portato poi a fare la ricerca anch'io con i buddisti, con tante realtà, e a un certo punto ho incontrato una realtà, diciamo, che è stata per me la meta, non la perla nascosta, il tesoro nascosto, che è la fede Bahá'í. Quello che mi ha colpito nella fede Bahá'í, che è nata nel 1894 in Persia, Baha'u'llah è fondatore, diciamo, che è stato praticamente imprigionato, esiliato per 40 anni, è stato condotto poi ad Acca, in Terra Santa, e oggi, se voi guardate su internet, sul Monte Carmelo ci sono i luoghi sacri Bahá'í, e la profezia di Isaia di migliaia di anni fa, che diceva che su questo monte Dio avrebbe detto la terra, si è realizzata per me, diciamo. Ma la cosa che mi ha colpito inizialmente nella fede Bahá'í è il concetto di progressività religiosa. Vorrei provare un po' a dare la visione di Bahá'í con le domande che sono state poste, diciamo. Cioè, intanto, io sono perfettamente d'accordo sul concetto che Dio è inconoscibile. Tant'è vero, secondo me, c'è stato un equivoco nel buddismo. Noi abbiamo solo frammenti del pensiero di Buddha, no? Ma oggi i buddisti, per me è stato uno shock, vi confesso, scoprire che i buddisti non credono in Dio, diciamo, è stato per me quando ho scoperto questo. Però questo nasce da un discorso, chiedono a Buddha, ma esiste Dio? E Buddha rimane in silenzio. Allora dice, non esiste, rimane in silenzio. In realtà anche Baha'u'llah afferma questo concetto dell'inconoscibilità dell'essenza di Dio. Addirittura Baha'u'llah arriva a dire che anche il profeta, nella fede Bahá'í esiste il concetto di manifestazione di Dio. Per capirci, diciamo, se diciamo che Dio è il sole, la manifestazione di Dio è uno specchio perfetto che riflette tutti gli attributi di Dio. Nel Vangelo Gesù dice che ha conosciuto me, ha conosciuto il Padre, ha conosciuto Dio, no? Però Baha'u'llah dice anche che non si fa differenza tra i profeti, agli occhi di Dio sono tutti uguali, tutti riflettono lo stesso verbo. Quello che cambia è l'intensità della rivelazione, cioè la rivelazione è progressiva, ognuno porta, sono dei maestri spirituali, ognuno porta quel tanto di verità che l'umanità può capire. Infatti Gesù nel Vangelo dice tante cose da dirvi, ma non potete comprendere, vi mando tutto il tempo successivo. Allora, tutti noi dobbiamo essere dei filosofi, no? Tutti noi dobbiamo fare questa ricerca, tutti noi dobbiamo essere anche umili, no? Per esempio Baha'u'llah, in uno scritto, fa questo esempio, dice, no? Considerate la facoltà razionale dell'uomo, non è questa facoltà razionale, ma se uno meditasse per tutta la sua vita e cercasse di comprendere questa facoltà innata che è in lui, alla fine dovrebbe ammettere che non è in grado di capire questa sua realtà che è dentro di lui. Allora Bolla dice, ma questo segna l'acme dell'intelletto umano, cioè l'uomo che riconosce questi suoi limiti arriva al massimo, perché nella realtà, diciamo, che noi, in cui noi viviamo, esistono varie dimensioni. Allora la visione Bahá'í è questa: esiste un'essenza di Dio inconoscibile, questa rimarrà sempre inconoscibile. L'unica via che noi abbiamo per conoscere questa realtà è quella dei profeti, delle manifestazioni di Dio. Se noi leggiamo i libri sacri di qualunque religione, ci rendiamo conto che l'insegnamento fondamentale è uguale, è l'amore alla fine, no? Quello che cambia è la legge sociale, ma anche questo è logico, perché la civiltà è in continuo progresso. Le leggi di Mosè erano delle leggi molto, molto rigide, no? Erano date anche a quel tempo. Gesù porta la legge dell'amore, no? E così via. Muhammad, che si manifesta in mezzo a un popolo selvaggio e riesce a fare di questo popolo, nonostante, come è successo nel cristianesimo, perché il problema che dicevi prima di purificarsi è quello che è successo dopo, cioè il Vangelo è stato interpretato in tanti modi, sono i dogmatismi, e questo andrebbero purificati, perché oggi cos'è che impedisce il vero dialogo? Il fatto che ognuno è convinto che Gesù è l'unico figlio di Dio, Mohammed è il sigillo dei profeti, no? Paolo ha scritto un libro, si chiama Il libro della certezza, dove spiega, no? questi termini. Allora io dico, la realtà è una, no? Un altro principio della Filippetti è l'armonia tra scienza e religione. Allora anch'io non credo nel Dio in cui non credo, nel senso che nel Dio dogmatico, però esiste una realtà fisica che la scienza studia, esiste una realtà interiore che, come Galileo, no, ha detto praticamente, no? La scienza ci dice come funziona il mondo, non ci crea mai perché è stato fatto il mondo. Allora io direi di lasciare aperta nel nostro cuore questa porta e di andare a leggere, vedere cosa hanno scritto, no? Queste grandi figure del passato, perché diciamo, se è vero che la realtà ha varie dimensioni, diciamo, no? Esiste la dimensione, per esempio nel Vangelo è scritto il principio del verbo, il verbo era presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di lui. Allora se noi chiediamo che Cristo è il verbo, no? Però io credo che questo verbo sia riflesso in Abramo, in Mosè, in Muhammad, in Baha'u'llah, diciamo, no? Perché è l'eterno verbo di Dio che si riflette. Allora io vado a vedere se questi profeti possono insegnarmi qualcosa di più, diciamo, no? Esiste anche una visione, una teoria addirittura che i filosofi greci, Socrate addirittura, si fosse recato in passato a incontrare le comunità ebraiche e abbia preso da loro il concetto di immortalità dell'anima, insomma, anche questo concetto, diciamo, quindi anche la filosofia stessa nasce da una visione religiosa della vita. Quindi secondo me è importante mantenere aperta, il primo principio della verità è libera e indipendente ricerca della verità, quindi lasciare il cuore aperto. Esiste anche in noi una forza, Gesù diceva chi bussa sarà aperto, no? Io penso esiste in noi una forza spirituale particolare, non so se vi è mai capitato nella vita, quando desiderate qualcosa e la chiedete con forza, a un certo punto vi arriva, magari in una maniera. Quindi io dico, chiediamo, rivolgiamoci a questa realtà, anche se non ci crediamo, qualcosa al nostro intimo, e chiediamo di essere guidati. Io penso che avremo anche delle sorprese, qualcosa che potrebbe meravigliarci, diciamo, in questo senso. Però se non manteniamo questa apertura, diciamo, anche verso l'aspetto della religiosità, diciamo, di quello che sono le testimonianze dei profeti del passato, potremmo in un certo senso limitare la nostra capacità di comprensione e anche di crescita, insomma. Ma a Bolzano c'è una comunità Bahai? Sì, la fede Bahai, diciamo, è diffusa in tutto il mondo, dove ci sono almeno 9 Bahai, perché Baha'u'llah, diciamo, ha ribadito nei suoi scritti l'insegnamento eterno, che è quello dell'amore, diciamo, no? Infatti quella dice la terra è un solo paese, l'umanità cittadina, no? Però ha portato anche quello che secondo me, secondo la mia visione, no? È la realizzazione del Padre nostro, venga il tuo regno come in cielo così in terra, cioè ha portato delle leggi che in futuro governeranno l'umanità. Quando Baha'u'llah è in prigione, è stato imprigionato, è stato portato ad Adrianopoli, lui ha scritto ai re di tutta la terra e li ha invitati a fondare la più grande pace, diciamo, no? Napoleone III, quando ricevette la sua tavola, la buttò via, disse: questo è Dio, io sono due dei, no? Dopo un po' Baha'u'llah gli mandò un'altra lettera, diciamo, dice: abbiamo udito ciò che tu hai pronunciato, e gli porta le parole che hai detto, per ciò che hai fatto, che hai buttato via la parola di Dio, ti ha creato questo, questo e questo. È stata la più grande caduta, no? Quella di Napoleone III, che si era vista nella storia, diciamo, è stata perso un'occasione per l'umanità. Adesso, se veramente, perché potrebbe essere, come è stato anche citato, potrebbe essere una, diciamo, un'illusione, no? Però quando Mosè, per esempio, parlò al faraone, c'era un credente della famiglia del faraone che era credente, no? E che manteneva nascosta la sua fede, disse: ma perché tratti così Mosè? Dice: se, perché se viene da Dio, stai attento, quello che dirà, che dice, potrebbe realizzarsi. Se non viene da Dio, come è nato, così finirà. Allora pensiamo alla figura di Cristo, diciamo, no? La storia di Cristo, cioè il figlio di un falegname considerato senza madre, no? Che comincia a insegnare pochi adepti, diciamo, a un certo punto muore su una croce solo, anche i discepoli lo abbandonano, però poi la sua parola abbraccia mondo. Quindi questo potrebbe venire. E dico, a Bolzano siete in 9 al mese. Sì, sono 7 locali a Bolzano. Sono un filosofo, ma c'è anche una sede nazionale a Roma, sì, c'è anche una sede locale di 9 persone, più di 9 persone, sì, sì. Scusate, io chiederei ad Augusto di chiudere perché stiamo andando troppo oltre, mi dispiace, è tutto molto interessante ma abbiamo degli orari. Scusate. No, ma abbiamo già, come dire, non c'è una chiusura, spero che ognuno di voi porti a casa questi spunti di riflessione, li coltivi nel suo cuore e trovi altre occasioni per dialogare con gli altri. Se qualcuno dal 18 agosto al 24 agosto vuole venire a Emice, non deve far altro che cercare nel mio blog e scrivermi e iscriversi. Buona serata a tutti e grazie.